cercato in un posto lontano, molto lontano da tutti voi. Qui tutto è bianco, tutto è ghiacciato, fa tanto freddo, mi sento un gelato. Ma da laggiù vedo sbucare tanti pinguini, eccoli là, come soldati vicini, vicini, dondolano un po' o di qua e di là. Ma guarda che pinguini, piccoli e carini, non hanno mica freddo, per loro è un po' di fresco. Non sono tutti bianchi, non sono tutti neri, ma prova a distinguerne uno se ci riesci. E tu sai il verso che fa? Avventura mi è tanto piaciuta, ma poi l'ho voluta raccontare. Del resto un sogno ti porta lontano e fino al polo io sono arrivato. Ma da laggiù vedo sbucare tanti pinguini, eccoli là, come soldati vicini, vicini, dondolano un po' o di qua e di là. Che fa?